non so che altri punti di vista, purtroppo non stavo sentendo la radio, quindi non so dove stava. Praticamente, vabbè, io mi trovo a Via Veneto e praticamente, come un po' penso vi hanno raccontato, a Piazza Barberini si è saliti verso Via Veneto per fare questo assedio verso il Ministero del Lavoro. C'è qualcosa che non va, non vi sento più. E praticamente questo, gli hanno raccontato che tutto il corteo era molto blindato da forze dell'ordine in quantità veramente smisurate, si contavano ogni via del corteo, almeno 3-4 blindati per ogni vietta, quindi insomma niente di leggero, insomma quantitativi di forze della polizia veramente molto elevati. E Via Veneto adesso anche è bloccata da diverse camionette dei carabinieri nonché della polizia, e ovviamente quindi viene sbarrata da queste diverse camionette delle forze dell'ordine la strada per andare verso il Ministero del Lavoro e verso il Ministero. E ci si è, insomma si sta cercando, c'è stato un tentativo di accorpamento comunque di delle persone, dei compagni e le compagne del corteo, di compattarsi, si sono messi un impermeabile blu e si sta cercando di capire se si riesce appunto almeno un po' ad avanzare verso Via Veneto per raggiungere questo il Ministero e praticare l'assedio che si è detto più volte durante il corteo. Se non che, ripeto, insomma il tutto è molto blindato, anche a Piazza Barberini, insomma vedo che stanno lanciando penso un po' di fumogeni, e quindi diciamo c'è un momento così di stallo. Ci sono, ricordo, insomma tutta Piazza Barberini e tutta Via Veneto piena di del corteo, le vie laterali sono tutte piene di blindati dei carabinieri e così anche sopra e sotto, quindi insomma adesso è un momento di stallo. Io non senti so di dire, ascolta, insomma, che valutazione dai tu, così le confrontiamo un po' del numero? No, sui numeri purtroppo non sono molto preparata. Vabbè, l'impressione rispetto meno grosso di quello del 19 ottobre, poi piano piano, come insomma tutti i cortei, si è ingrossato strada facendo. Dico, si è ingrossato strada facendo, ci sì, dicevano. Come al solito, poi si ingrossano sulla strada facendo, quindi diciamo che poi è diventato un corteo abbastanza grosso, abbastanza variegato, sia di età che di composizione. C'è sicuramente insomma da notare un notevole quantità, oltre che di forze dell'ordine, anche di giornalisti. C'è stato anche l'episodio davanti al Ministero dell'Economia, di cacciata dei giornalisti che stanno insomma veramente in assetto antisommossa, come si può dire, in assetto di guerra. Beh, qualche manganellata se la beccano pure loro, quindi s'attrezzano. Sì, più che altro sono tanti. Evidentemente insomma si cerca, non è, insomma, invece di anche andare a capire là dove ci sono poi le lotte quotidiane, si cerca anche un po' l'evento, per cui certo, diciamo in questo momento siamo abbastanza così di stallo. Diciamo che il corteo insomma ha i suoi contenuti, continua ad avere i suoi contenuti, insomma, contro Renzi, sul lavoro, c'è tutta la parte ovviamente delle case, ci sono insomma anche diversi compagni da fuori, da Torino piuttosto che da Napoli, e sono arrivati abbastanza anche loro, abbastanza numerosi. E per quanto riguarda Via Veneto, insomma diciamo la situazione adesso è abbastanza bloccata, cioè abbastanza di stallo, anche perché insomma a dirigere la piazza c'è il noto commendatore, io poi non so mai come si chiamano questi che dirigono la piazza, questa avete sentito in diretta, Bombone, sì. Bomboni, lo stesso insomma che aveva gestito la piazza, almeno a mia memoria uno degli ultimi cortei in cui io l'avevo vista era stato quello del 14 novembre degli studenti, dove diciamo non era stata insomma una gestione molto leggera, insomma cariche pesanti verso ragazzini, lanci, addirittura si parlò, no, dei lanci dei lacrimogeni addirittura dal ministero stesso, quello della giustizia che si trova a via San Centro. Per cui vediamo un po'. Senti, ma effettivamente, no? Adesso voi siete lì fermi praticamente all'imbucco di Via Veneto con lo schieramento della polizia, con i blindati che si trova praticamente a fronteggiare la testa del corteo, per capirci. Sì. Ma il corteo dovrebbe continuare a sfilare cioè nel senso sì, si dovrebbero levare e far passare. Dovrebbe continuare a sfilare da via Barberini, dovrebbe scendere giù verso le del Corso per poi girare a sinistra sul tunnel che è via Milano, poi tornare sì, da via Nazionale, Piazza Indipendenza e poi Porta Pia. Okay. Questo dovrebbe essere il... Infatti il camion è rimasto comunque a Piazza Barberini, mentre è stato... il corteo ha invitato i manifestanti a salire verso via Veneto. Per okay, via Veneto. Ok. Quindi diciamo che parte del corteo e il camion sono fermi a Piazza Barberini, parte del corteo in particolare e alcuni manifestanti con questo impermeabile blu sono saliti verso via Veneto, ma a metà di via Veneto, quindi neanche a dire che hanno chiuso via Veneto dall'inizio, sì, via Veneto a metà. Da metà, diciamo da poco prima dell'ambasciata americana. Poco per capirci, prima dell'ambasciata americana, è chiusa lì. E quindi adesso appunto lo stallo è così, insomma, diciamo tra Piazza Barberini e metà di via Veneto. E questo è quanto. Va bene. Mi sembra che si rimanga insomma anche abbastanza qua, non mi sembra che si riesca, diciamo che i livelli di forze dell'ordine sono impressionanti. Abbiamo già visto insomma in questi giorni qual è stato a livello repressivo degli sgomberi, gli ultimi sgomberi, insomma mi sembra che l'indicazione del nuovo governo Renzi rispetto alla repressione sia molto chiaro: manganellate, rottura di teste, insomma qualsiasi cosa è buona presa per strada, trappane, cose per menare gli occupanti e i manifestanti, quindi questo insomma ingente schieramento delle forze dell'ordine ha abbastanza reso abbastanza chiara la determinazione della polizia, insomma, blindate su blindate su blindate. Io, se volete, insomma, rimango ancora un secondo in sì, diretta. Certo. Sì, sì, ok, sì, vai. Magari... Allora, rimango in diretta, rimango qua, cerco insomma di vedere. Purtroppo non è che posso. Allora, ci stanno delle bandiere del SICOBAS che fronteggiano le guardie, fondamentalmente sono loro che due bandiere dei SICOBAS, questo insomma c'erano anche tantissimi lavoratori della logistica che sono scesi in piazza e ovviamente insomma tutte le lotte che quotidianamente ci stanno in Italia, una quella della logistica dei facchini è una delle più avanzate che ha anche molto da rivendicare, quindi sono scesi in piazza anche numerosi. E quindi sono diverse bandiere dei Cobas, poi ci sono ovviamente stop tratti, sgomberi, la solita insomma bandiera che porta in tutto il movimento di lotta per la casa, quello contro gli sgomberi, che c'è anche la murga che sento muoversi da qualche parte, penso giù verso Piazza Barberini, non so se stia salendo per via Veneto. Senti, diciamo una domanda, scusami, anche se sì, insomma sono percorsi dove non è che ci siano molti negozi nonostante il piannisteo dei commercianti, ma come l'hai vista la situazione? Bar magari hai visto chiuso? Allora, diciamo che tutta la situazione qua attorno è chiusa, ci stava mentre passavo un ristorante aperto che ha fatto uscire quello che si trovano quelli che hanno i baldacchini su proprio sui marciapiedi, no? Che sì, sono di vetro, che appena insomma il corteo ha girato per via Veneto hanno fatto uscire tutti quanti, il padrone gli ha detto al camminare piena boccia di vino e si sono chiusi dentro la pizzeria di fronte. Ma quindi hanno rientrato, ma approfittano per farsi una bella scampagnata, dai. Hanno rientrato i frigoriferi con le orate crude pensando che qualcuno le potesse prendere, magari di fare pigliare a pesci in faccia insomma qualche blindato. Hanno cacciato tutti i turisti per strada, l'hanno mandato via, ha detto vabbè pranzo è finito, andate per strada, quindi in mezzo al corteo, e loro sono presi la boccia di vino e si sono chiusi dentro la pizzeria, questi commercianti di via Veneto ovviamente insomma, molti dei quali non so se poi è proprio quello, non so se vogliamo ricordare sì, ricordiamolo questi, insomma, comunque gli scandali per collusione con la mafia che sì, i locali sì, di via Veneto hanno la dolce vita romana. La dolce vita romana, bravo. Sì, grande insomma, bacino di riciclaggio, per esempio il Caffè de Paris, nonostante questo nome infatti, così elegante, sono 3-40 anni che ricicla i soldi della mafia, che la 'Ndrangheta forse, ma adesso non ricordo. E questo è il voto, oggi è la giornata dei Cota, c'era la Cota dei giornalisti, la Cota della polizia, la Cota quindi a Veneto dei commercianti, insomma ognuno comunque hanno chiuso tutti, anche diciamo via Barberini era abbastanza chiusa, diciamo centro della città abbastanza serrato, ovviamente i bar che sono rimasti aperti hanno fatto affari d'oro. Per il resto, fra l'altro, scusami se ti interrompo, dando così un'occhiata così davanti al computer alle immagini che provengono insomma dai vari siti di informazione, dei vari giornali, dei vari quotidiani che stanno coprendo chiaramente, come ormai di solito fanno, la manifestazione, è molto evidente il fatto di come tutto praticamente la parte laterale del corteo sia cosparsa praticamente di fotografi, giornalisti, addirittura gente con aste con microfoni alte 3 metri per cercare di carpire così, presumo, i momenti, no, di organizzazione della piazza, e effettivamente insomma è abbastanza d'effetto questa cosa, e capisco pure come poi il corteo giustamente a un certo punto tratti queste persone come un corpo estraneo, molto fastidioso e molto invasivo, fra l'altro. Sì, anche perché diciamo che questa volta il corteo è stato un corteo particolare, perché c'era un servizio d'ordine per tutto intorno al camion, addirittura con il bandone quello giallo che si usa per chiudere le strade, il nastro, che cercava di che appunto tutto intorno al camion, quindi praticamente i manifestanti si trovavano tutti dietro al camion perché non potevano passare, ma di fronte al camion c'era un quantitativo di giornalisti proprio avvoltoi che si sono piazzati ancora prima dei manifestanti, come diciamo aprono il corteo loro praticamente, aprono il corteo loro ad Igos come sempre, e poi insieme e poi giornalisti che si sono piazzati loro prima addirittura dei manifestanti davanti ai cosiddetti possibili obiettivi, che in qualche maniera come a volerli anche determinare e decidere, per cui motivo per cui poi quando uno arriva che vuole manifestare contro un ministero, giustamente come si è sempre fatto nella storia dei cortei, si trova lo schieramento non tanto più delle guardie ma dei giornalisti. Vabbè, fanno lo scudo umano al ministero praticamente. Lo scudo umano al ministero, infatti io non so insomma se questa cosa sia voluta, determinata, insomma, o decisa. Soprattutto in questo contesto, ma il 19 ottobre mi è sembrato che era un po' di meno. In questo mi sembra veramente molto, è stato un livello molto avanzato, anche se poi insomma il corteo le sue parole d'ordine l'ha dette dal camion, ci sono cartelli, slogan, insomma non è che mi sembra abbastanza chiara la situazione. E diciamo che c'è insomma anche da parte di tutta la comunicazione, insomma i mezzi di informazione, più in questo momento la necessità di ribellarsi piuttosto che insomma stare a proteggere o a lucrare, a sciacallare su questo corteo, che comunque continua a rimanere così, io insomma cerco di allungare un po' il brodo, però continua a rimanere una fase di stallo. Ricordo che a Piazza Barberini c'è parte del corteo con il camion e parte del corteo si sta cercando di capire se riesce a superare questa barriera veramente enorme, questo muro di camion, di blindati delle forze dell'ordine tra polizia e carabinieri, che sono ovviamente tutti schierati in tenuta antisommossa. È veramente eccessivo, perché non solo c'è una prima barriera ma dietro ce ne sono addirittura altre, quindi ne conto io almeno 7-8 se non di più, quindi insomma in questo momento mi sembra che ancora siamo in stallo, casomai non lo so se volete io continuo, se no ci possiamo pure provare a risentire fra 5 minuti. Io direi di fare così, nel senso che è evidente insomma che un'altra visione della piazza. Assolutamente, magari proviamo a sentire qualche altro compagno, qualche altra compagna. Perfetto. Che si trova lì da quelle parti, e vediamo un po' così di raccontare quanto sta succedendo. Magari ci si risente dopo, quando insomma magari il corteo si rimuoverà, si riprenderà il cammino verso via del Tritone. Perfetto. Ok, a più tardi, intanto grazie, ciao. Poi